avvicinati, o figlia. Ecco il tuo sposo. Lo sposo mio? Sì. Vedi se giammai più bel nodo in ciel si strinse. Ma se lei ci dovesse, come il mio bene, il genitore mi inganna, crede mega Crisposo, e se ne affanna. E questo padre, il vincitore. Bel chiedi, non lo ravvisi al volto di polve asperso, all'onorate stille che gli riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero. Oh, che diceste al Cambro? Io dissi il vero. Non più dubbiezze. Ecco il consorte a cui il ciel t'accoppia, e nol potea più degno tener dagli dei l'amor paterno. Che giorno eterno! E voi tacete, onde il silenzio? Dio, come comincerò? Parlar vorrei, ma... Intendo, intempestiva è la presenza mia. Severo ciglio, rigida maestà, paterno impero, incomodi compagni sono agli amanti. Io mi sovvengo ancora quanto increbbero a me. Restate, io lodo quel modesto rossor che vi trattiene. Sì.